Chiunque legge per la prima volta l'Antico Testamento rimane un poco perplesso, se non confuso. Se inizia a leggere dal libro della Genesi riesce ancora a seguire la lettura con un certo interesse, ma dal capitolo 21 del libro susseguente, e cioè il libro dell'Esodo, subito si trova immerso in regole sociali e religiose incredibilmente noiose. Eppure chi desidera leggere la parola di Dio e la ritiene di uguale valore dalla prima pagina fino all'ultima è chiamato a leggerla con lo stesso spirito di ricerca. Poiché le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Romani 15:4 Poiché tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. 2 Timoteo 3:16 È opportuno prendere in esame anche brevemente il valore spirituale delle 7 feste annuali ebraiche, quali la Pasqua ebraica, la festa degli azzimi, la festa delle primizie, la festa delle Pentecoste. La Pasqua ebraica, Levitico 23:5. La Pasqua ebraica ricordava agli israeliti la liberazione del popolo dall'Egitto avvenuta all'epoca di Mosè, come è riportato nel libro dell'Esodo. Pur avendo vari significati, essa parla soprattutto di liberazione e, simbolicamente, ci ricorda Cristo il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere, Tito 2:14. Dopo la resurrezione di Cristo, la Pasqua ebraica è stata sostituita dalla rammemorazione della cena del nostro Signore Gesù. In un incontro dove si prende del pane e del vino, il credente ricorda la sua liberazione dalla perdizione, dalla corruzione del peccato, dal giudizio futuro mediante la morte, la resurrezione e il ritorno di Cristo. Spesse volte chi ha posto fede in Gesù si ferma a questo aspetto della grazia di Dio, ma egli è stato liberato per essere zelante in opere buone e ricordarsi ogni giorno che Cristo è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. 2 Corinzi 5:15. La Pasqua ricorda al credente che ogni attimo della sua vita appartiene a Cristo. 2. La festa degli azzimi, Levitico 23:6. Questa celebrazione era strettamente connessa con la Pasqua. Gli ebrei dovevano eliminare dalla casa il lievito e cibarsi per 7 giorni di pane azzimo. Nella Bibbia il lievito è simbolo di peccato. Perciò questa festa aveva lo scopo principale di ricordare agli israeliti la necessità di essere puri e santi. Per chi ha posto fede in Cristo Gesù, questa festa religiosa ricorda, come scrisse l'Apostolo Paolo, che la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Dunque, dopo essere stato redento dal peccato, chi ha posto fede in Cristo Gesù quale Salvatore deve avere una vita santa, perché Dio è santo. Levitico 11:44. La festa degli azzimi ricorda al credente la necessità di essere santo. 3. La festa delle primizie. Levitico 23:10-15. Questa festività era una consacrazione del raccolto e segnava l'inizio della mietitura nel paese. Si prendeva dal campo la primizia della raccolta dell'orzo, si formava un covone e lo si agitava davanti all'Eterno. La festa aveva luogo il giorno dopo il sabato, cioè primo giorno della settimana. È importante considerare questa festa sia come primizia, sia per il giorno nel quale veniva effettuata, perché raffigura in modo inequivocabile la resurrezione di Cristo. Infatti di lui l'Apostolo Paolo, che era ebreo, dice: «Se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta». 1 Corinzi 15, 19, 20. Gesù Cristo, quale figlio di Dio, è sì, risorto per primo dai morti il primo giorno della settimana ebraica, per annunciare che un giorno tutti gli esseri umani risorgeranno. Non è possibile avere fede in Cristo e non credere alla resurrezione. Per il credente la festa delle primizie ricorda la resurrezione primaria e unica di Cristo. 4. La festa delle Pentecoste, Levitico 23:16-23. 50 giorni dopo la presentazione del covone, e perciò della festa delle primizie, si presentavano e si agitavano davanti all'Eterno due pani con lievito per segnare il completamento del raccolto del grano. Questo era l'unico periodo dell'anno nel quale si doveva portare davanti all'Eterno del pane lievitato, anche se poi non veniva offerto in olocausto sull'altare. Questo giorno di festa era indicato come giorno di santa convocazione durante il quale non si doveva fare nessun lavoro. Simbolicamente questa festa preannunciava il giorno nel quale la Pentecoste sarebbe stata compiuta pienamente e lo Spirito, quello santo, sarebbe sceso sugli uomini per dare inizio alla Chiesa. Il fatto che in quel giorno non si dovesse fare nessun lavoro è un segno che per ricevere la persona dello Spirito Santo non occorre fare nessuna opera buona, ma esso viene dato gratuitamente a chiunque pone fede in Cristo. Chiunque accetta il sacrificio di Cristo quale atto di riconciliazione con Dio, nasce di nuovo mediante l'opera della persona dello Spirito Santo, entra a far parte della Chiesa, atto questo quale compimento della semina del Vangelo. Per il credente la festa delle Pentecoste ricorda che solo per grazia fa parte della Chiesa di Cristo, il quale nel momento opportuno verrà a rapirla. 5. La festa delle Tronde, Levitico 23:24. Un lungo intervallo intercorreva tra la festa di Pentecoste e quella delle Tronde. Questa era una delle ultime tre feste solenni dedicate all'Eterno, che cadevano nel settimo mese tra l'altro, nel quale cadeva il Capodanno secondo il calendario civile adottato nell'era del dopoesilio. Ogni primo giorno del mese venivano suonate delle trombe d'argento, numeri 10:10, ma questo suono della tromba nel primo giorno del settimo mese doveva ricordare che si stava avvicinando il giorno dell'espiazione. La festa delle trombe rappresentava la chiamata di Dio a Israele a radunarsi in preparazione dei due grandi eventi, che sarebbero seguiti quasi immediatamente. La parola di Dio si riferisce spesso a delle trombe, delle quali le più note molto probabilmente sono quelle dei sette angeli per i giudizi di Dio descritti nell'Apocalisse, ma vi è pure la tromba che verrà suonata nel giorno del rapimento della Chiesa, 1 Tessalonicesi 4:16. Per il credente la festa delle trombe ricorda l'avviso di Dio che per tutti vi è un giudizio, di condanna o di salvezza. Dio è fedele tanto nel compiere il bene quanto nel lasciare che si avveri il male. Giosuè 23:15. 6. La festa dell'espiazione. Levitico 23:27-33. Il giorno dell'espiazione segnava l'occasione più solenne del calendario religioso di Israele. Era una giornata di afflizione nella quale si richiamavano alla coscienza i peccati della nazione. Soltanto in questo giorno dell'anno al sommo sacerdote era concesso di entrare nel luogo santissimo del tabernacolo. Si prendevano due capri e uno, estratto a sorte, portava via i peccati della nazione in una terra non abitata, mentre l'altro era ucciso dal sommo sacerdote e il suo sangue versato sul propiziatorio nel luogo santissimo. Tale festività simboleggiava il tempo nel quale Israele sarà afflitto dal rimorso per la crocifissione di Cristo, Zaccaria 10:30, e si pentirà collettivamente per tornare a Lui. Per il credente questa festa ricorda il sacrificio di Cristo, il quale ha fatto l'espiazione per le sue trasgressioni. Salmo 65:3. Ricordo sempre vivo quando si raduna per prendere il pane e il vino per celebrare il sacrificio di Cristo. 7. La festa delle capanne, Levitico 23:34. Questa celebrazione nella storia di Israele era sempre legata a periodi di gioia. Il popolo si riuniva per 8 giorni, dimorando in capanne e rallegrandosi nella benevolenza di Dio. si portavano le primizie a Dio e infine si faceva un ringraziamento per il raccolto dell'anno. Si ricordavano inoltre i vagabondaggi di Israele nel deserto durante il periodo successivo all'esodo dal paese d'Egitto. La festa delle capanne parla della futura era di pace e di prosperità quando Gesù regnerà, come della gioia del credente, per la grazia ricevuta mentre abita ancora nella tenda del corpo. 2 Corinzi 5, 2 a 4. Il cristiano, nonostante non celebri le 7 feste annuali ebraiche, le vive ogni giorno. Si ricorda che la sua vita appartiene al vero unico Salvatore e che deve essere santo. Si ricorda della resurrezione di Gesù Cristo, di far parte della Chiesa e dei giudizi di Dio. Non dimentica il sacrificio espiatorio che Gesù ha compiuto per lui e per questo vive ogni giorno nella gioia di essere un figlio di Dio e di appartenere a lui per l'eternità. Infine non dimentica che vive come forestiero in questo mondo. Ebrei 11 e 13, abitando nella tenda del suo corpo, desiderando di essere rivestito della sua abitazione. Celeste, seppure sarà trovato vestito e non nudo, 2 Corinzi 5, 2. Per questo, un figlio di Dio è felice di far festa un giorno su 7, soprattutto la domenica, anche se vive ogni giorno come se fosse sempre domenica. Con questa prospettiva non vi è vita migliore e migliore speranza. Chi può offrire di più? Per un contributo, Teologia del Calendario Studi di Teologia, IFED, numero 43, aprile 2005, Ellero,